Le piacevoli notti, libro primo di Giovan Francesco Straparola. Quarta favola della terza notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. La signora fece cenno ad Alteria che a dire incominciasse, ed ella, levatasi da sedere, fece una riverenza e dalla sua favola diede cominciamento. Favola quarta. Fortunio, per una ricevuta ingiuria dal padre e dalla madre putativi, si parte, e vagabondo capita in un bosco, dove trova tre animali, da quali per la sua sentenza è guidardonato, indi entrato in Polonia, giostra, ed in premio Doralice, figliuola del re, in moglie ottiene. Egli è un motto che tra volgari è non poco frequentato nei ragionamenti loro: non scherzar che il doglia, né motteggiar del vero, perciò che chi ode, vede e tace, altri non nuoce e vive sempre in pace. Fu adunque nelle estreme parti di Lombardia un uomo chiamato Bernio, il quale, quantunque de beni della fortuna abbondevole non fusse, non però d'animo e di cuore agli altri inferiore si reputava. Costui prese per moglie una valorosa e gentilesca donna, nominata Alchia, la quale, avenga che di bassa condizione fusse, era però dotata di ingegno e di laudevoli costumi, e tanto amava il marito quanto un'altra che trovarsi potesse giammai. Essi molto desideravano figliuoli, ma la grazia da Iddio non gli era concessa, perciò che l'uomo il più delle volte non sa quello che addimandando più gli convenga. Stando ambeduo in questo desiderio, e veggendo la fortuna essergli al tutto contraria, costretti da lungo desio, deliberorono di prenderne uno e per proprio e legittimo figliuolo tenerlo e nutricarlo. Ed andatisene una mattina per tempo a quel luogo dove sono i teneri fanciulli dagli loro padri abbandonati, ed adocchiatone uno che più bello e più vezzoso degli altri gli parve, quello presero, e con molta diligenza e disciplina fu da loro accostumatamente nudrito. Avenne che, come piacque a colui che l'universo regge ed ogni cosa a suo bel grado tempra ed ammollisce, Alchia si ingravidò, e pervenuto il tempo del parto, parturì un figliuolo che tutto somigliava al padre, di che l'uno e l'altro ne ebbe incredibile allegrezza, e Valentino nome gli imposero. Il fanciullo, ben nutrito ed allevato, cresceva ed in virtù ed in costumi, e tanto amava il fratello, Fortunio chiamato, che quando egli era senza di lui, da doglia si sentiva morire. Ma la discordia d'ogni ben nemica, vedendo il loro fervido e caldo amore, e non potendo mai sofferire tanta tra loro amorevolezza, un giorno se interpose, ed operò sì che gli suoi frutti acerbi assaggiare incominciorono. Imperciò che, scherzando tra loro, un giorno, sì come usanza dei fanciulli, ed essendo per lo giuoco riscaldati alquanto, e non potendo Valentino patire che Fortunio nel giuoco gli fusse superiore, in tanta rabbia e furore venne, che più volte, bastardo e nato di vil femmina, gli disse. Il che udendo Fortunio, e di ciò maravigliandosi molto, assai si turbò, e voltosi verso Valentino, gli disse: «Come? Sono io bastardo?» E Valentino, con parole tradenti non morte, seco tuttavia contrastando, animosamente lo confermò. Laonde Fortunio, oltre modo dolente, dal giuoco si partì, ed andatosene alla putativa madre, dolcemente la dimandò se di lei e di Bernio era figliuolo, a cui Alchia rispose che sì. Ed accortasi che Valentino con ingiuriose parole oltraggiato l'aveva, quello fortemente minacciò, giurando di malagevolmente castigarlo. Fortunio per le parole d'Alchia suspicò, anzi tenne per certo che egli suo figliuolo legittimo non fusse, pur più volte assaggiare la volse se egli era suo vero figliuolo, e di saperlo al tutto deliberò. Onde Alchia, vedendo l'ostinato volere di Fortunio e non potendo da tale importunità rimoverlo, gli confermò lui non esser suo vero figliuolo, ma nudrito in casa per amor di Dio e per alleviamento de peccati suoi e del marito. Queste parole al giovane furono tante coltellate al cuore e gli crebbero doglia sopra doglia. Ora, essendo senza misura dolente, né sofferendogli il cuore se medesimo con alcuna violenza uccidere, determinò di uscire al tutto di casa di Bernio ed, errando per lo mondo, tentare se la fortuna da alcun tempo gli fusse favorevole. Alchia, veduta la volontà di Fortunio ogni ora più pronta, né vedendo modo né via di poterlo rimuovere dal suo duro proponimento, tutta accesa a dire di sdegno, diegli la maledizione, pregando Iddio che se gli avvenisse per alcun tempo di cavalcare il mare, ei fusse dalla sirena non altrimenti inghiottito che sono le navi dalle procellose e gonfiate onde marine. Fortunio, dall'impetuoso vento del sdegno e dal furor dell'ira tutto spinto, né intesa la maledizione materna, senza altro congedo prendere dai parenti, si partì ed indrizzò verso ponente il suo cammino. Passando adunque Fortunio or stagni or valli or monti ed altri alpestri salvatici luoghi, finalmente una mattina tra sesta e nona giunse ad uno folto ed inviluppato bosco e dentro entratovi trovò il lupo, l'aquila e la formica che per la cacciagione di già un preso cervo fuor di modo si rimbeccavano ed impartirlo in maniera alcuna convenire non si potevano. Stando adunque i tre animali in questo duro contrasto, né volendo l'uno ceder all'altro, al fine in tal guisa patteggiorono, che il giovane Fortunio, che allora eravi sopraggiunto, dovesse la loro lite difinire, dando a ciascuno di loro la parte che gli paresse più convenevole. E così tutta tre rimasero contenti, promettendo l'uno all'altro d'acquetarsi ed in maniera alcuna non contravenire alla definitiva sentenza, quantunque ella fosse ingiusta. Fortunio, preso volentieri l'assunto e con ogni maturità considerata la loro condizione, in tal guisa la preda divise. Al lupo, come animal vorace addentato molto, in guidardone della durata fatica, assegnò tutte l'ossa con la macilente carne. All'aquila, uccello rapace di denti privo, per rimunerazione sua, in cibo offerse l'interiora, col grasso che la carne e l'ossa circonda. Alla granifera e sollecita formica, per esser manchevole di quella potenza ch'al lupo e dall'aquila è dalla natura concessa, per premio della sostenuta fatica, le tenere cervella concesse. Del grave e ben fondato giudizio ciascuno di loro rimase contento e di tanta cortesia quanta ei usata gli aveva, come meglio puotero e seppero, il ringraziarono assai. E perciò che la ingratitudine tra gli altri vizi è sommamente biasmevole, tutta tre concordi volsero che il giovane non si partisse se prima da ciascun di loro non era per lo ricevuto servigio ottimamente guidardonato. Il lupo adunque, in riconoscimento del passato giudicio, disse: «Fratello, io ti do questa virtù, che ogni volta che il tuo desiderio sarà di divenire lupo, e dirai fuss'io lupo, incontanente di uomo in lupo tu ti trasformerai, ritornando però a tuo bel grado nella tua forma prima». Ed in tal maniera fu altresì dall'aquila e dalla formica beneficiato. Fortunio, tutto allegro per lo ricevuto dono, rendute prima quelle grazie che i seppe e puote, chiese da loro commiato e si partì, e tanto camminò che aggiunse a Polonia, città nobile e popolosa, il cui imperio teneva Odescalco re, molto potente e valoroso, il quale aveva una figliuola, Doralice per nome chiamata, e volendola onorevolmente maritare, aveva fatto bandire un gran torniamento nel suo regno, né ad alcuno intendeva in matrimonio copularla, se non a colui che della giostra fosse vincitore. E molti duchi, marchesi ed altri potenti signori erano già da ogni parte venuti per far l'acquisto del prezioso premio. E della giostra ormai era passato il primo giorno, ed uno saracino, sozzo e contrafatto di aspetto, strano di forma e nero come pece, di quella superiore appareva. La figliuola del re, considerata la difformità e l'ordura del saracino, ne sentiva grandissimo dolore che ne fusse della onorata giostra vincente, e messasi la vermiglia guancia sopra la tenera e delicata mano, si attristava e rammaricava, maledicendo la sua dura e malvagia sorte, bramando prima il morire che di sì sformato saracino moglie venire. Fortunio, entrato nella città e veduta la onorevol pompa ed il gran concorso dei giostranti, ed intesa la causa di sì glorioso trionfo, si accese di ardentissimo desiderio di mostrare quanto era il suo valore nel torniamento. Ma perciò che era privo di tutte quelle cose che ai giostranti si convengono, dolevasi molto. E stando in questo namarico ed alzando gli occhi al cielo, vide Doralice, figliuola del re, che ad una superba finestra appoggiata si stava, la quale, da molte vaghe e generose matrone circondata, non altrimenti pareva che il vivo e chiaro sole tra le minute stelle. E sopraggiunta la bugia notte ed andatisene tutti ai loro alloggiamenti, Doralice, mesta, si ridusse sola in una cameretta non meno ornata che bella. E stando così, solinga, con la finestra aperta, ecco Fortunio, il quale, come vide la giovane, fra sé disse: «Deh, che non so io Aquila!» Né appena egli aveva fornite le parole, che Aquila divenne, e volato dentro della finestra e ritornato uomo come prima, tutto giocondo e tutto festevole, se le presentò. La poncella, vedutolo, tutta si smarrì, e sì come da famelici cani lacerata fusse, ad alta voce cominciò a gridare. Il re, che non molto lontano era dalla figliuola, udite le alte grida, corse a lei, ed inteso che nella camera era un giovane, tutta la zambra ricercò, e nulla trovando, a riposare se ne tornò, perciò che il giovane, fattosi aquila, per la finestra si era fuggito. Né fu sì tosto il padre postosi a riposare, che da capo la poncella si mise ad alta voce gridare, perciò che il giovane, come prima, a lei presentato si aveva. Ma Fortunio, udito il grido della giovane e temendo della vita sua, in una formica si cangiò e nelle bionde trezze della vaga donna si nascose. Odescalco, corso all'alto grido della figliuola e nulla vedendo, contra di lei assai si turbò e acramente minacciolla che se ella più gridava, egli le farebbe uno scherzo che non le piacerebbe, e tutto sdegnato si partì, pensandosi che ella avesse veduto nella sua immaginativa uno di coloro che per suo amore erano stati nel torniamento uccisi. Il giovanetto, sentito del padre il ragionamento e veduta la di lui partenza, la spoglia di formica depose e nel suo bel esser primo fece ritorno. Doralice, vedendo il giovane, subitamente si volse gittar giù dal letto e gridare, ma non puote, perciò che il giovane le chiuse con una delle mani la bocca e disse: «Signora mia, io non sono qui venuto a torvi l'onore e l'aver vostro, ma per confortarvi ed esservi umilissimo servitore. Se voi più gridarete, una di queste due cose verrà: o che il vostro chiaro nome e buona fama sia guasta, o che voi sarete cagione della mia e vostra morte. E perciò, signora del cuor mio, non vogliate ad un tempo macchiare l'onor vostro e mettere a pericolo di amenduo la vita». Doralice, mentre Fortunio diceva tai parole, piangeva e si rammaricava molto, né poteva in maniera alcuna patire il paventoso assalto. Ma Fortunio, vedendo il perturbato animo della donna, con dolcissime parole che avrebbero spezzato un monte, tanto disse e tanto fece che addolcì l'ostinata voglia della donna, la quale, vinta dalla leggiadria del giovane, con esso lui si pacificò. E vedendo il giovane di bellissimo aspetto, robusto e delle membra sue ben formato, e ripensando tra se stessa alla bruttura del saracino, molto si doleva che egli dovesse della giostra esser vincitore e parimente della sua persona possessore. E mentre che ella seco ragionava, le disse il giovane: «Damigella, se io avesse il modo, volentieri giostrerei, e dammi il cuore che della giostra sarei vincitore». A cui rispose la donzella: «Quando così fosse, niun altro che voi sarebbe della persona mia, signore». E vedendolo tutto caldo e ben disposto a tal impresa, di danari di gioie infinite l'accomodò. Il giovane, allegramente presi i danari e le gioie, addimandolla qual abito più le sarebbe a grado che egli si vestisse. A cui rispose: «Di raso bianco». E sì come ella divisò, così egli fece. Fortunio, adunque, il giorno seguente, guarnito di rilucenti arme coperte di una sopravesti di raso bianco, di finissimo oro e sottilissimi intagli ricamata, montò sopra un possente ed animoso cavallo, coperto di colore del cavaliere, e senza esser da alcun conosciuto, in piazza se ne gì. Il popolo, già raunato al famoso spettacolo, veduto il prode cavaliere isconosciuto con la lancia in mano per giostrare, non senza gran maraviglia e come smemorato, incominciò fisso a riguardarlo, e ciascuno diceva: «Deh, chi è costui che si leggiadro e si pomposo si rappresenta in giostra e non si conosce?» Fortunio, nell'ordinata sbarra entrato, al suo rivale fece motto che entrasse, ed Amenduo, abbassate le nodose lance, come scatenati leoni si scontrorono, e così grave fu del giovanetto il colpo nella testa che il saracino toccò del cavallo le groppe e non altrimenti che un vetro battuto ad un muro nella nuda terra morto rimase. E quanti quel giorno in giostra ne incontrò, tanti furono da lui valorosamente abbattuti. Stavasi la damigella tutta allegra e con ammirazione grandissima intensamente il riguardava, e tra se stessa ringraziava Iddio che della servitù del saracino l'aveva deliberata, e pregava Iddio gli desse la vittoriosa palma. Giunta la notte e chiamata Doralice a cena, non gli vi volse andare, ma fattisi portare certi delicati cibi e preziosi vini, finse non aver allora appetito di mangiare, ma facendole bisogno al tardo sola mangerebbe. E chiusasi sola in camera ed aperta la finestra, lo affezionato amante con sommo desiderio aspettò, e ritornatosi come la notte precedente, ambeduo insieme lietamente cenorono. Dappoi Fortunio la dimandò come dimane vestire si dovesse, ed ella a lui: di raso verde, tutto di argento e d'oro finissimo ricamato, ed altresì il cavallo. Ed il tutto fu tostamente la mattina esequito. Appresentatosi adunque in piazza, il giovanetto all'ordinato termine del torniamento entrò, e se il giorno avanti il suo gran valore aveva dimostrato, nel sequente vie più quello dimostrò, e la delicata donzella giustamente esser sua ognuno ad alta voce affermava. Venuta la sera, la damigella tra sé tutta gioconda, tutta giocosa ed allegra, finse quello istesso che nella precedente notte simulato aveva, e chiusasi in camera ed aperta la finestra il valoroso giovane aspettò, e con esso lui agiatamente cenò, ed addimandatala da capo di che vestimento nel sequente giorno addobbarsi dovesse, gli rispose: di raso cremesino, tutto ricamato di oro e di perle, ed altresì la sopraveste del cavallo sarà in tal guisa guarnita, perciò che in tal maniera sarò ancor io vestita. Donna, disse Fortunio, se dimane per avventura io fussi alquanto più tardo dell'usato nel venire in giostra, non ve ne maravigliate, perciò che non senza causa tarderò la venuta mia. Venuto il terzo giorno e l'ora del giostrare, tutto il popolo il termine del glorioso trionfo con grandissima allegrezza aspettava, ma niuno dei giostranti, per la smisurata fortezza del prode cavaliere incognito, ardiva di comparere. E la dimoranza del cavaliere troppo lunga non pur al popolo generava sospetto grandissimo, ma ancora la donzella, quantunque della dimora ne fusse consapevole. E vinta da interno dolore, non se ne avvedendo alcuno, quasi tramortita, cadde. Ma poi che ella sentì Fortunio avvicinarsi alla piazza, gli smarriti spiriti cominciorono a ritornare ai loro luoghi. Era Fortunio d'un ricco e superbo drappo vestito, e la coperta del suo cavallo d'oro finissimo, tutta dipinta di lucenti rubini, di smeraldi, di zaffiri e di grossissime perle, le quali, secondo il giudizio universale, un stato valevano. Giunto in piazza il valoroso Fortunio, tutti ad alta voce gridavano: «Viva! Viva il cavaliere incognito!» E con un spesso e festoso batter de mani fischiavano. Ed entrato nella sbarra, sì coraggiosamente si portò, che mandati tutti sopra la nuda terra, della giostra ebbe il glorioso trionfo, e sceso giù dal potente cavallo, fu dai primi e dai maggiori della città sopra i loro omeri sollevato, e con sonore trombe ed altri musici strumenti, e con grandissimi gridi che givano infino al cielo, alla presenza del re incontanente lo portorono. E trattogli l'elmo e le rilucenti arme, il re vide un vago giovanetto, e chiamata la figliuola, in presenza di tutto il popolo, con grandissima pompa, la fece sposare, e per un mese continuo tenne corte bandita. Essendo Fortunio con la diletta moglie in certo tempo dimorato, e parendogli sconvenevole e cosa vile il starne l'ozio volto, raccontando l'ore sì come fanno quelli che sciocchi sono e di prudenza privi, determinò al tutto di partirsi ed andarsene in luoghi dove il suo gran valore fosse apertamente conosciuto. E presa una galea e molti tesori che il suocero gli aveva donati, e tolta da lui e dalla moglie buona licenza, sopra la galea salì. Navigando adunque Fortunio con prosperi e favorevoli venti, aggiunse nell'Atlantico mare. Né fu guari più di 10 miglia entrato nel detto mare, che una sirena, la maggiore che mai veduta fusse, alla galea si accostò e dolcemente cominciò a cantare. Fortunio, che in un lato della galea col capo sopra l'acqua per ascoltare dimorava, si addormentò e, così dormendo, fu dalla sirena diglutito, la quale, attuffatasi nelle marine onde, se ne fuggì. I marinai, non potendolo soccorrere, scoppiavano dal dolore, e tutti mesti e sconsolati la galea di bruni panni copersero, e dall'infelice sfortunato descalco fecero ritorno, raccontandoli l'orribile e lagrimoso caso che nel mare gli era sopravvenuto. Dil che il re e Doralice e tutta la città, grandissimo dolore sentendo, di neri panni si vestiro. Avvicinatasi già l'ora del parto, Doralice un bellissimo bambino parturì, il quale, vezzosamente in molte delicatezze nutrito, all'età di 2 anni pervenne. E considerando la mesta ed addolorata Doralice, se esser priva del suo diletto e caro sposo, né esservi più speranza alcuna di poterlo riavere, nell'alto e viril animo suo propose di voler al tutto, ancor che il re consentire non le volesse, mettersi in mare alla fortuna e la sua ventura provare. E fatta mettere in punto una galea ben armata e di gran vantaggio, e presi 3 pomi a maraviglia lavorati, dei quai l'uno era di auricalco, l'altro di argento e il terzo di finissimo oro, tolse licenza dal padre ed in galea col bambino montò, e date le vele al prosperevole vento nell'alto mare entrò. La mesta donna, così navigando con tranquillo mare, ordinò agli marinai che, dove lo sposo suo dalla sirena fu inghiottito, in quel luogo condurre la dovessero, il che fu esequito. Aggiunta dunque la nave al luogo dove lo sposo fu dalla sirena diglottito, il bambino cominciò dirottamente a piangere, e non potendolo la madre per modo alcuno attasentare, prese il pomo di auricalco ed al fanciullo lo diede, il quale, seco giocando, fu dalla sirena veduto ed ella, accostatasi alla galea e sollevando alquanto la testa dalle schiumose onde, disse alla donna: «Donna, donami quel pomo, perciò che di quello io sono innamorata molto». A cui la donna rispose non volerglielo donare, perciò che del figliolino era il trastullo. «Se ti sarà in piacere di donarlomi», disse la sirena, «ed io ti mostrerò lo sposo tuo insino al petto». Il che ella intendendo e desiderando molto di vedere lo sposo suo, glielo donò, e la sirena, in ricompenso del caro dono, sì come promesso le aveva, il marito sino al petto le mostrò. Ed attuffatasi nell'onde, non si lasciò più allora vedere. Alla donna, che ogni cosa attentamente veduto aveva, crebbe maggior desiderio di vederlo tutto, e non sapendo che fare né che dire, col suo bambino si confortava, al quale, da capo piangendo, acciò che s'attasentassi, la madre il pomo d'argento diede. Ma essendo per avventura dalla sirena veduto, alla donna lo richiese in dono. Ma ella, stringendosi nelle spalle e vedendo che l'era il trastullo del fanciullo, di donarglielo ricusava. A cui disse la sirena: «Se tu mi donerai il pomo che vi è più bello dell'altro, io ti prometto di mostrarti il tuo sposo sino alle ginocchia». La povera Doralice, desiderosa di vedere più avanti il suo diletto sposo, pospose l'amore del fanciullo e lietamente glielo donò. E la sirena, attesa la promessa, nell'onde s'attuffò. La donna, tutta tacita e sospesa, stavasi a vedere, né alcun partito per liberare da morte il suo marito prender sapeva, ma toltosi in braccio il bambino, che tuttavia piangeva, con esso lui si consolava alquanto. Il fanciullo, ricordatosi del pomo con cui sovente giocava, si mise in sì dirotto pianto che fu la madre da necessità costretta a dargli il pomo d'oro, il quale, veduto dall'ingordo pesce e considerato che sopra gli altri due era bellissimo, parimente le fu richiesto in dono, e tanto disse e tanto fece che la madre, contra il voler del fanciullo, glielo concesse. E perché la sirena le aveva promesso di far vedere lo sposo suo intieramente tutto, per non mancar della promessa, s'avvicinò alla galea e, sollevato alquanto il dorso, apertamente glielo mostrò. Fortunio, vedendosi fuori delle onde e sopra il dorso della sirena in libertà, tutto giolivo, senza interponere indugio alcuno, disse: «Deh, fossi un'aquila!» E questo detto, subitamente aquila divenne, e levatosi a volo sopra l'antenna della galea, agevolmente salì, ed ivi tutti i marinai vedendo, a basso disceso, nella propria sua forma ritornò, e prima la moglie ed il bambino, indi la marinerezza, strettamente abbracciò e basciò. Allora tutti allegri del recuperato sposo al regno paterno fecero ritorno, e giunti nel porto le trombe, le naccari, i tamburi e gli altri strumenti cominciorono sonare. Il re, questo udendo, si maravigliò e, sospeso, attese quello che ciò volesse dire. Ma non stette guari che venne il noncio ed annunciò al re come Fortunio, suo genero, con la diletta sua figliuola era giunto. E smontati di galea, tutti se n'andorono al palazzo, dove con grandissima festa e trionfo furono ricevuti. Dopo alcuni giorni, Fortunio, andatosene a casa e fattosi lupo, Alchia sua matrigna e Valentino suo fratello, per la ricevuta ingiuria, divorò. E ritornato nella primiera forma, ed asceso sopra il suo cavallo, al regno del suo suocero, fece ritorno, dove con Doralice, sua cara e diletta moglie, per molti anni, in pace, con grandissimo piacere di ciascuna delle parti, insieme si goderono. Fine della storia. Appena che Alteria aveva posto fine alla lunga e compassionevole sua favola, che la signora le impose che con lo enimma procedesse, la quale, tutta festevole, con lieto viso così disse: «Molto lontan da queste nostre parti alberga un animal crudo e gentile. Naturalmente tiene in sé due parti, l'una inumana, l'altra femminile. Vaga è molto al veder, mostra d'amarti, ma dispietata è forte ed inumile, canta soave e nel cantar produce oggetto tal che a morte l'uom conduce». Udito che fu il degno e notabile enimma d'Alteria proposto, diversi diversamente l'interpretavano, quando una cosa, quando un'altra dicendo, ma niuno fu che aggiungesse al segno. Onde, vedendo la vaga Alteria il lei enimma irresolubile rimanere, umanamente disse: «Altro non è, signori miei, il vero sentimento del nostro proposto enimma, se non la lusinghevole sirena, la qual dimora nelle onde marine, è un animale molto dilettevole a vedere, perciò che gli tiene il volto, il petto ed il corpo e le braccia di una vaga damigella e tutto il resto di squamoso pesce, ed è molto crudele. Canta soavemente e con il canto addormenta i marinai ed addormentati gli sommerge». Intesa la saggia ed arguta risoluzione della graziosa Alteria, tutti universalmente la commendorono ed ingegnosa la riputorono. Ma ella, con chiaro viso levatasi, tutti ringraziò della grata udienza che prestata le avevano, ed inchinatasi al suo luogo se ne gì a sedere. Fine della quarta favola della terza notte.